Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Anche oggi martedì 16 dicembre, l'appuntamento consueto del martedì insieme all'Adico. Saluto il presidente dell'Adico, Associazione Difesa Consumatori di Mestre, Carlo Garofolini. Benvenuto Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, ci sono delle nuove regole proprio dall'altro giorno, dal 13 dicembre, e sono le regole che passano, come dire, attraverso le etichette. Di che cosa stiamo parlando? Sì, parliamo di etichette, come hai detto tu, si tratta di un nuovo regolamento che è entrato in vigore sabato 13 dicembre, perché finalmente si cerca anche di mettere un po' di ordine su quello che fino ad oggi era un po' una giungla che secondo anche noi doveva essere regolamentata, ma soprattutto anche uniformata in ambito europeo, perché oggi ogni paese sostanzialmente aveva delle regole un po' internostro, e certamente con questa nuova direttiva europea numero 1169 del 2011 si dovrebbe definitivamente chiudere la partita delle etichette, anche se poi vedremo nel dettaglio che qualcosa andrà a regime nel 2015 e nel 2016. Etichette che riguardano, insomma, le cose che compriamo al supermercato, ovviamente, ma anche c'è una regolamentazione nuova anche per i pubblici esercizi. Per esempio, hanno il dovere di segnalare quelli che sono i prodotti allergenici nel loro menù. Certo, allora innanzitutto bisogna chiarire che la regolamentazione delle etichette ha una duplice funzione. Se da un lato si cerca di intraprendere una seria lotta alla contraffazione, l'altra è quella di rendere i consumatori consapevoli e responsabili nelle loro scelte. Soprattutto si cerca di mettere ordine su quella che è proprio l'etichetta, ma anche su quella che deve essere la dimensione dell'etichetta, perché oggi ci sono troppe volte delle etichette che non si riescono praticamente a leggere. Guarda, adesso che inizio ad avere un po' di difficoltà nel leggere le cose piccole, certe volte ce ne sono alcune che sono veramente incomprensibili, inizi a stropicciarti gli occhi ma non ne vieni fuori, o hai la lente di ingrandimento o non c'è verso. Esattamente, poi viene introdotto anche la percentuale di alcol. Comunque nel dettaglio abbiamo regolamentata la dimensione, praticamente o di 1,2 o di 0,9 mm la dicitura a seconda della dimensione delle confezioni. Poi per alcuni prodotti, per esempio come i decongelati, sarà obbligatorio indicare il metodo di lavorazione, soprattutto anche le tecniche di cottura, e questo va a rivolgersi in particolar modo ai prodotti ittici. Ci deve essere una trasparenza dell'etichetta anche rivolta verso una maggior descrizione dettagliata per garantire la provenienza del prodotto, perché oggi troppe volte si prende da una parte e si imbala da un'altra, spacciando un po' quella che è l'origine. Novità, come hai detto tu all'inizio, ci sono anche per la prima volta gli allergeni, cioè è diventato obbligatorio scriverlo sull'etichetta addirittura con un colore diverso da quello grossetto, per esempio eventuale presenza di prodotti come può essere la glutine, la frutta in guscio, gli arachidi, il sesamo, il pesce, i molluschi, i crostacei, il latte, la soia, il sedano, l'anidride solforosa, i lupini, la senape, tutti i prodotti che possono creare delle allergie devono essere quindi ben evidenziati e soprattutto anche con un colore diverso. La data di scadenza importante viene riportata anche sul prodotto all'interno della confezione, perché troppe volte c'era sull'involucro esterno, poi l'aprivi e il prodotto interno ne era sprovvisto. I valori nutrizionali saranno obbligatori invece dal 13 dicembre 2013, quindi ad oggi resta facoltativo. C'è una regolamentazione delle immagini, da aprile 2015 l'obbligo di indicare anche l'allevamento. E poi anche per quanto riguarda i ristoratori vanno l'obbligo di indicare quelli che sono gli ingredienti che possono creare delle allergie e su quelli che possono essere dei menù proposti al tavolo rispetto a quello che ad oggi sostanzialmente oggi manca di tutto, soprattutto per chi va a mangiare presso le trattorie e i ristoranti e ordinano dei cibi che sostanzialmente non riportano nessuna indicazione. Certo, perché se magari uno mangia di tutto non ha problemi, insomma per lui poco cambia, ma per chi invece soffre di allergie essere ben informato è assolutamente necessario, quindi è una cosa in più per garantire il consumatore. Ben vengano anche le nuove etichette, le nuove regole che sono già introdotte, quindi già adesso nei supermercati dovremmo vedere qualche piccolo cambiamento. In alcuni prodotti insomma c'erano già queste norme, in altri mancavano, e quindi adesso sì, le ditte produttrici sono costretti ad seguire queste nuove regole. Sì, volevo essere preciso, giusto che lo sai moltissimo anche tu, per quanto riguarda non solo i supermercati, quindi stavo guardando un pochino a chi era rivolto questo nuovo regolamento comunitario, di cui abbiamo detto ci deve essere l'obbligo di indicare i prodotti che possono creare allergie, ma anche c'è l'obbligo da parte dei ristoratori di pubblicare gli ingredienti sui menu che si ordinano al tavolo, ecco, questa è una cosa importante. Ma la norma viene rivolta quindi non solo ai supermercati, ma addirittura alle pasticcerie, alle gelaterie, al bar, alle mense, agli ospedali, alle bancarelle di fiera e compagnia, addirittura aeree, ferroviarie, se la tratta iniziale riguarda un paese UE. Quindi un passo sicuramente importante che dovremo attendere ancora un pochino perché va da regime nella sua completezza, ma che già da oggi, dal momento che un ristoratore o un supermercato finisce le scorte di magazzino, non può più permettersi di mettere prodotti che non siano completi con l'indicazione che abbiamo appena detto. Benissimo, credo che sarà una cosa molto utile per rendere, come dicevi tu, più consapevole il consumatore. Grazie a Carlo Garofolini, l'appuntamento con l'associazione Difesa Consumatori di Mestre è tra 2 giorni. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.